della notte. Lieto si sveglia e cerca di aprire le porte del tempio, ce la fa. Subito dopo viene seguito da Adone, litigano per aprire il nucleo e alla fine Adone lo riesce ad aprire e letteralmente non si sono accorti che dietro di loro c'era l'uomo che ride, che poi striscia dentro e alla fine si scopre che dentro questo nucleo viene svegliato quello che porterà alla fine del mondo. Vedendo tutto ciò, realizzando che Adone era soltanto una pedina, Lieto comunque non va bene quello che è successo, decide di utilizzare la memoria, si ritorna indietro nel tempo, nel mentre Lieto vede tutta la sua vita scorrere davanti agli occhi, più altre cose che noi non sappiamo, le sapremo se deciderà di dircele. Quindi si Dietro potrebbe ritorna. essersi dimenticate queste cose, Esatto, ma non è chissà. importante. Quindi, dopo aver usato la memoria, comunque in ogni caso Adone vuole aprire il nucleo, cioè non è che ha cambiato idea, vuole aprire il nucleo comunque in ogni caso, per fortuna si sono svegliati Mif e Nibel, e scendono giù e Mif casta Neuromancy in un momento di brawl tra Lieto e Adone dove c'è una time bubble a quanto pare particolare. Cosa del genere, Qualcosa del genere. Mif picchia Lieto e Adone e dopo si farà insomma spiegare tutto quello che è successo, quindi gli dà anche degli stupidi. Ok, e ci si sveglia, Adone è devastato, Adone ha avuto le convulsioni mentre era stava dormendo le note di e Lieto dopo. esatto. Ah, questa. Decidiamo di abbandonare il tempio e chiediamo ad Adelfo se gentilmente ci può chiudere la porta più esterna. Ci accorgiamo che dopo un po' Adelfo non sale e quando lo andiamo a prendere questo povero stronzo era veramente tanto spaventato con un libro nero in mano, fermo, frizzato nel... Facciamo Quindi c'è. colazione, convinciamo che Cici viene con noi. E poi scendiamo dal monte, alla fine. Poi al massimo fillate, prima finisco, poi finisco. Troviamo Promezia. Troviamo Promezia, la madre di Lieto, ovvero Pronoe, che ha il libro blu in mano e oltre ad essere incazzata come una iena del fatto che c'è Lieto lì, si incazza ancora di più dopo che Lieto le spacca il libro. Assist di Counterspell di Mif. Entrano in scena le due Magister, la Magister Sigi e la Magister Isti, e si avvia uno scontro apocalittico, nel senso che Pronoe evoca tantissimi cosi da tantissimi automi da Otlica e tutta risposta decidono l'impero di evocare le loro pedine. Ho finito. Perfetto, ho solo una scena da fare. Secondo. Avete uno scorcio di questa cosa voi giocatori, non i personaggi? Due figure indefinite opposte, sia per la loro collocazione che per la loro natura. Notate per favore. Ce la posso fare. Grazie. Sia per il loro aspetto che per le loro intenzioni, si fronteggiano sopra una scacchiera ben oltre la fase dell'apertura. La figura gialla, con un sorriso completamente nero, sussurra: "Ancora una volta hai perso." E la figura nera, con un sorriso completamente bianco, risponde: "Non penserei che il gioco sia finito, vero?" Guardando meglio la scacchiera si rivela essere un caleidoscopio di geometrie non euclidee, in cui le caselle nere e quelle bianche formano un turbinio incomprensibile di posizioni impossibili, e alla sua fine decine di altri pezzi neri, o tinti di nero, si preparano a fronteggiare i pezzi gialli, come se all'esterno non ci fossero almeno altri tre giocatori con pezzi di altrettanti colori, come se la guerra non fosse appena iniziata. Riprendiamo subito la. Oddio, ho sbagliato canzone, scusate. Riprendiamo subito la scena che ha descritto Mif. Vi Si parte dopo un attimo questa canzone. Vi cambio in scena su Roll20. Spero ci siate tutti su Roll20. Io ci sono. Grande. Yes. Ok, è un bordello, è rappresentativo, non è effettivamente quello che c'è. Voi siete divisi in due gruppi, un gruppo a nord e Lieto separato. Promezia è poco distante da Lieto, a sinistra ci sono le due Magister e le tre persone, cioè le tre gruppi di persone che sono scesi dai sigilli che ha creato una delle due Magister sono qua, il tizio con le ali piumate e le altre persone con lui, qua c'è il tizio con i falcetti e qua c'è il maggiordomo. Madonna. Grandissimo. Ho scritto i loro turni. Faccio prima i loro turni e poi tocca a voi. Posso fare solo una domanda, certo. Dianice? Perché il mio coniglio è così indietro rispetto a me? Non voglio così... fare il cacacazzo. No, era però... posizionato così, cioè siete dove volete. Ok, perfetto, va benissimo, perfetto. Sì, sì, sì. No, no, era perché i pezzi erano già messi qui con okay, quelle okay, sì, rapporti. Sì. L'ultima volta che avete combattuto. Bom, bom. E vado con l'ordine che ho prefatto io, quindi fate conto che queste robe sono scriptate. Alla fine di tutta sta roba che sto per fare, che non interagisce con voi, come avrete intuito, potete fare quello che volete. Parte per prima la Magisteristi. Lancia una benedizione che avvolge il tizio con i falcetti, il gruppo di in basso a sinistra, di biondi, sono tutti e tre biondi, credo, tranne Beatrix, che è nuova castana, che però non viene avvolta da questa luce. Se stessa e l'altra Magister hanno una specie di armatura di luce e le loro armi, se ne hanno, brillano. Cerca poi di sussurrare qualcosa, siete lontani quindi il suo sussurro non arriva fino a voi, contro Promezia, ma non ci sono reazioni a questa cosa. C'è, fa un, come si dice, una smorfia al Magister. Non la vedete perché c'ha la maschera, quindi non fa nulla, fa un flinch. Poi tocca al maggiordomo. Il maggiordomo, elegante, con la principessa tra le braccia, mormora parole in una lingua antica e oscura, evocando al suo cospetto tre piccoli imp. Di questi ce li abbiamo. Ora mi direte, sono fottutamente uguali agli altri, ne sono consapevole. Posso dire, mi erano mancati gli imp, cioè, visto? Mi si è trovato. Infatti. E l'altra cosa è che non somigliano solo su Roll20 per mancanza di fondi, ma gli somigliano anche Irla, nel senso che hanno lo stesso, la stessa palette. Per il resto, i robot che sono volati al cielo sono macchine giganti e questi sono imp. Dopo averli comandati, fa una capriola all'indietro per calciare uno dei mostri che gli stavano avvicinando e sparisce in una nuvola di fumo nero. La stessa nuvola ricompare davanti a Mif. Ups, ho sbagliato. Davanti a Mif, ti fa proprio puff e ti compare davanti. E l'uomo elegante dalla voce nasale le dice, fissandola con un'espressione seria: tu puoi addormentarla, se si sveglia proteggila, io li tengo a distanza. Quindi te la lancio addosso e si gira caricandosi di energia o qualche stronzata arcana. Quasi sì, ti ha... sembra proprio un problema tuo. Il tizio viola, a proposito, ehi Adone. Sì. Tu conosci tutti qua. Sì. Tu conosci tutti? Perché, a parte i tuoi compagni, i quattro che erano alla centrale li conosci. I Magister, hai avuto brutti modi di incontrarli entrambi, perché una è quella che avete, che il gruppo ha affrontato a... Lui non c'era. Io ok. Non ti hanno raccontato di una dei due Magister. Va bene. L'altra. E l'altra è la donna spirale. Immaginavo. E vasa. Quella con la... Quella di cui non ti ricordavi il volto perché era censurato. Okay, perfetto. Però riconosci il vestito, la corporatura, la voce, sì, il modo di fare e connetti i puntini. Mm-hmm. Promezia, sinceramente, non mi ricordo se la conosci. forse no. No, Gideon so. Forse ne aveva parlato, no. Può no. essere. Adesso, ma i Zanzan. Sì. Ah, Idos l'hai incontrato, ci hai parlato, è il maggiordomo. Certo. La principessa la... Sì, la principessa la conosci di fama e le avevi parlato con Every Talk. Certo. E l'ultimo è quello che tu conosci come V. Il tizio con i palcetti. Sì, ho unito i puntini. Perfetto. Passo a lui, te l'ho fatto questa premessa che stavo passando. Come se stesse continuando meccanicamente un compito assegnato a lungo tempo, il giovane dai lunghi capelli neri squarta con i suoi falcetti i mostri che gli si avvicinano e sembra riuscire a generare cristalli neri dai corpi che smembra. Dopo un po' si accorge che c'è qualcosa di diverso intorno a lui, come se per terra si fosse formato un buco colmo di spine acuminate, cioè che escono fuori da questo buco. Il ragazzo sembra conversare con qualcuno, qualcosa dentro la spaccatura e basta, cioè questa è l'unica cosa che vedete. La Magister Sigi, che era quella che non ho ancora agito, quella con la maschera del gufo, urla verso Promezia: sigillo di fosforo! Un disegno di luce interamente contenuto in un cerchio luminoso compare davanti alla donna mascherata, ma scoppia come un fuoco d'artificio prima di arrivare verso Promezia, alla quale l'unico effetto che c'è da questa cosa è che le si abbassa il cappuccio nero. La Magister, che ha appena lanciato questa cosa, parla con l'altra e dice: Sondra, così non funziona, ha troppe stronzate anomale addosso. Come ultima azione del turno crea un'alchimia, per quelli di voi che studiano alchimia, quindi nessuno, sembra creare una specie di campo di forza intorno a sé per le creature. Poi, ho quasi finito, il biondo con le ali ha gli occhi chiusi e le mani impegnate perché sta sorreggendo una ragazza dei capelli castani. Sbatte le ali per alzarsi leggermente in aria e quattro corde di luce avvolgono, che provengono da lui, avvolgono altrettanti dei mostri meccanici più vicini al suo gruppo, quindi i quattro intorno, voi li vedete dalla mappa, e ognuno di loro fa un roll per resistere. Nessuno di loro lo supera. Ora lo dividiamo per 4 questo numero. 46, non ne uccide neanche uno, ma li indebolisce. Cioè, vedete che questa roba di luce li folgora. È un fulmine, parte un fulmine. Oh no. Sì. Va a cadere un fulmine che si dirama per colpirle tutti e quattro. Ren e Carl, che per molti di voi non sono nessuno, sono le sue due guardie del corpo, per così dire, che sono armate di pistola, sparano a altrettanti dei mostri, cioè sparano un proiettile a testa a ciascun mostro, e senza che rollo i danni, tre muoiono, tre vengono distrutti, e l'ultimo rimane, cioè evita il proiettile, quindi rimane avvolto da questa corda di luce. Lo segnalo col puntino giallo. Ho quasi finito. Pronoe, che è qua, che è vicino a voi, alza una mano, quella che Lieto le ha ferito, e casta una magia che in realtà conoscete, una necromanzia. In versione diversa dal solito, che ferisce tutte le persone vicine, compreso Lieto. Anzi, Lieto, da che parte Lieto. Stai? Perché questa cosa verso le due parti. Ok. Tu ti fa cenno di andartene. No, ho appena preso il sì, ho preso il passaporto della Svizzera lui. Ok. Ti facendo di andartene, quindi ti chiedo se te ne vuoi effettivamente andare e usare un'azione di movimento per allontanarti. Sì, me ne vado. Perfetto, quindi al tuo prossimo turno avrai un'azione di movimento in meno. E viene lanciata questa magia, aspettate. Posso vuoi fare counter spell? Che è una roba un po' così. Ah, ok, non prende. Prima? Me lo conti come... Ah, ok, me lo conti come... Ok, ci sta. e questa roba fa 14 danni da oscurità a tutti i bersagli intorno. Per ogni danno inflitto, un pezzetto dell'energia delle cose colpite le inizia a roteare intorno. Quindi ha tipo 14 per un numero molto alto di cosetti neri che le girano intorno. E questa roba viene assorbita in un'unica spada nera, molto lunga, una katana. E prima di finire il suo turno fa un fendente verso le Magister cercando di colpirle entrambe. Ho da fare due roll. Non vi metto i bonus su roll 20. Puoi fare quello che vuoi, non ci metto nulla di spoiler. La Magister Sigi lo evita senza problemi. La Magister Isti viene colpita. Devo leggere un secondo i danni. Un di 6 più 8. Dodici danni. Ok, ho finito tutti i loro turni. Potete andare voi nell'ordine come che preferite. Posso andare io? Per me va bene. Bene, dopo vado io. Vedete? Vedete Adone alzare il braccio sinistro e puntare verso Pronoe. Chi è che è più vicino? Lieto, I guess. Ok, Lieto e Sara, notate una luce leggermente diversa negli occhi di Adone. E lo sentite pronunciare nella lingua dell'inferno una frase. Rache, scusate, no, Vergeltungsfung für Riegel. Capolavoro. E casta il Core di Dauti sulla corona nera di Pronoe. Che per voi era un circlet, e dopo che l'ha detto, you fucking noticed. Devi rollare i danni, perché Promette non è in grado di cancellare sta roba. Perfetto. Ah, io merda, volevo fare anche un'altra cosa. Vabbè, non importa, lo faccio dopo. Bene, cosa devo rollare? Se sono tutti su Promezia, sono 4 di 8. Sono tutti su Promezia. Cioè, avresti un coso davanti. Vedi che c'hai un di quelli davanti, quindi o ti sposti per non avere nessuno sulla linea di tiro. Allora, facciamo che si è spostato. Ah, però no, volevo caricare la cosa. Ti puoi anche spostare vicino a me, cioè di una... Mi metto, credo, mi sposto davanti a Nibel. Nibel, vedi Adone che, come posseduto, ti passa davanti, alza il braccio e spara quello che ha descritto, ovvero un fulmine di... due fulmini, uno nero e uno bianco, che prendono con precisione millimetrica. Rollo per resistere, ma serve solo per ridurre i danni. Non resiste. E puoi rollare 4 di 8 danni su Promezia. Perfetto. Meno 2 se ti interessa. Meno 2. Perfetto, sai, potrei, ho fatto 9 danni. Vuoi usare sia sia Rewind, che però ce n'hai un numero limitato, sia ti fatti concedo di usare Future Glimpse, sia l'intervento, sì, quello che vuoi. Cazzo, uso l'intervento. Vai, rerolli 4 di 8. Prendiamo i migliori per ciascuno? Non cambia nulla, perché hai fatto meglio con ogni singolo dado. Fai 20 danni, ma non ti interessava fare 20 danni. Ovviamente. Quello che ti interessava è colpirla in testa, e questa forma di energia le fa schizzare letteralmente in aria la corona. Perfetto. E ora io rollerò un di 8 e un di 20. No, un di 8 e un di 10 per vedere in che direzione va. 1. Allora, 1, 2, 3. Siete stati sfortunati. È qua. Porco Dio. Va benissimo. Aspettate che la metto nera. Ok. Non sapete cosa sia, che lei è appena scivolato di testa, ma sapete che ha tankato 20 danni senza rompersi. Tendenzialmente le cose non lo fanno. E Adone, hai fatto un'azione base e due azioni base. Credo sia vero, perché volevo muovermi dopo. Cazzo, vabbè. E se hai del movement avanzato, puoi finire di usarlo. Casto Future Glimpse. Ok, questa azione extra. E quindi ho più due di movimento, tra l'altro. Sì. Ok, quindi ne avevo 4, 5, 6. Ho 4 per spostarmi ancora, no? Sì, mi pare. Sì. Ok. Adone 4 e 2 corre qua. Non va bene, eh? Cioè no. 4 e 2 è, devi fare meno di 4. Ah, ok, va bene. Quindi puoi andare a 3 e 6. Sì, è stupido. Sì, vado, credo che andrò proprio là dove mi sei entrato. Vuoi muoverti o non? Ok, c'hai i power. Sì, sì. Allora. E detto questo, ho cassato Future Glimpse a posto. Allora, i cuori di Doughty è una necromanzia, quindi guadagni 4 punti a necromanzia, che non credo userai mai, okay. Però è così. No, però è fatto. L'altra cosa che hai castato è Future Glimpse, che ce l'hai up e ti dai i punti a teurgia. Te li segno io, già che ce l'ho grazie. Aperta. E più 4, 5. Fine del turno di Adone, no. Tocca al coniglio. Esatto, bellissimo. Io aspetta che mi dico se tutto. Se cazzo, corre, si muove del doppio, però non fa nient'altro nel turno. Infatti, vediamo. Quanto si muove il mio coniglio? Mi sembra 4, o 4 o 5. Non c'è scritto nella scheda, vero? No. Dovrei sistemarlo dopo 10 sessioni. A parte che è un coniglio speciale. È un cinghiale. Ok. Dammi un attimo che non mi sta caricando Pentagon. Allora, 5 di velocità di movimento. Ok, a 5. No, credo che lo faccio correre. Ok. E lo faccio andare lì pronto ad afferrare. Puoi andare anche sopra per poi bloccarlo se vuoi. Ok, sì, credo che va sopra la corona. E me lo devi spostare tu perché non posso spostare. Sì, immaginavo. Per fine del turno di Adone, sì. Volete. Qual è il piano? Infatti, cioè, più che altro sarebbe scappare. Mif riconosce... Mif riconosce la persona sì, che sì, ha... Sì, è una delle persone più famose del mondo, quindi... Sai chi è? Ti ha detto di tenerla addormentata, per favore, grazie. Mif si gira verso di me e fa, dobbiamo andarcene. Tipo, si sistema un attimo la principessa per provare a tipo fare, non so, un sacco di patate, qualcosa, tirarsela su, in sostanza. Dobbiamo andare, non possiamo metterla in pericolo così. Lieto ti fa notare che Adonese mi aveva uno dei problemi che abbiamo già sperimentato. Cazzo nei romanzi? Siete tutti alla merce di tutti poi, Io me ne vado. No. Facciamo il turno io e Nivel. Il turno io e Nivel e poi tu casti okay, i romanzi. Ok, allora vi faccio hold. In più devo tirare il mana. Devi rollare... Ah, rolla... Il mana. Il massimo. Dovrebbe essere il massimo perché ho la massima vita. Sì, sì, allora do al massimo. Devo calcolare quanto. Sì, usate le schede perché su Roll20 non ho aggiornato un cazzo di niente. Io ho sempre usato la scheda. Perfetto. A voi tra Nibel e Lieto conta che hai un'azione in meno perché ti sei mosso per evitare. Sì. E vai Nibel, faccio per l'ultimo io. Sì, sto pensando. Con l'azione si può scattare, tipo? Scattare intendi dire usare la tua sprint? Cioè tipo raddoppiare il movimento? Quello è un turno intero, cioè devi usare due azioni base e un'azione extra. Ok. Nel senso, se tu hai modi di avere altre azioni, le puoi usare. Però di base è tutto il turno. Sì, adesso vado a dire una cosa. Sette. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Non ti sentivo. Non ho idea di che cazzo fare. Cioè, ci dobbiamo allontanare per evitare un neuromancy? Sì. Puoi segnare il range se vuoi. Quant'è? Dimmelo che lo mostro io. 5, 6. 5. 5 per S. 5 per S è un problema, poi. 5 per S fa minimo 20. 25. Infatti. Poi. Dopo 25. Non ce ne sono abbastanza quadretti per 25. No, dovete proprio uscire dall'area per... Cioè 25 è... questo. Sì. L'avevo segnato. In più dovete contare che Pronoe non faccia il suo bel counterspell, oltretutto. MS che cos'è? Velocità di movimento. Okay. E se vogliamo vabbè. Contate che voi avete un corridoio senza nemici a nord-est. Cioè è voluta questa cosa qua. Mentre sì, dovete immaginare che i nemici continuano oltre l'area che vedete, quel corridoio lì è senza. Però bisogna anche prendere Adone, molto probabilmente. C'è quello problema. Non preoccupatevi per Adone. Io se uso Sprinter c'ho... Io odio fare. È 25 è tanto. Se uso tutto il turno invece c'ho 10 in movimento, però perdo tutto il turno. Vai. Oh, è scappato. Numero 1 però, non numero 2. Il punto qual è? Attaccare Pronoe o attaccare i tizi che sono... Ma cioè io lascerei stare tutti quanti. Non mi pare sia la nostra battaglia, mettiamola così. Ok. Se uso... Questi stanno gonfiando di botte però. Se uso lo scatto non posso usare l'azione, vero? Se non hai modo di recuperare l'azione, no. Perché altrimenti farei tipo con Sprinter. Arrivo a fare quello, aspetta un attimo. Ring Line. Dicevo qua tipo prendevo Adone. Con Sprinter arrivo a 7, quindi tipo qua arriverei. Altrimenti con scattando e basta arrivo tipo qua più o meno qui. Ma fai a prendere Adone. Adone vuoi essere preso? Ma io non voglio essere preso, porca troia. Non hai voce in capitolo in questa cosa. Oddio, però fa culo, c'ho il coniglio lì sopra. Ok. Vabbè, io non lo so cosa vuoi fare, quindi io nel tutto, no, non ti riesco a prendere. Passo lì di fianco a te, uso Sprinter, ti prendo al volo e poi mi muovo qua. Ok, sì, lascia prendere. Dove era qui, tipo, qua sopra. Anche uno sopra, sì. E ti porti dietro Adone? Sì, mi porto dietro Adone. Ok. E se possibile lo sposto sopra, sopra, perché faccio da scudo. Ok, sopra c'è un altro, quindi... O davanti a me, allora, sulla destra. Sì. E uso Sprinter, quindi ho più 1 di evasion, quindi adesso sono a 14. Di HP quant'è che sono? È full, non avete 60 su 60. 60, ok. Non ho più azioni, non posso fare overpower, vero? No, perché ho usato l'azione extra per Sprinter. Sì, esatto. E niente, allora termino il turno qua. Ok. Lieto. E poi mi Lieto. Ah. No, vabbè, tanto c'ho un'azione sola, quindi... No, io vado. Addio. E su 5 movimento, sì. E... a te e mezzo, 5 esatto. Te lo conto come run, quindi non fai nient'altro. Sì, sì, sì, e tanto c'ho un'azione sola. Perfetto. Sì. Miff. Quindi la casto o aspetto che usciate di più? Fai, fai. Però vai. Perché sennò posso fare Terrify. No, casta. Ok, Myth vi guarda, si guarda in giro, guarda Pronoi e casta Nero Fancy. Tutti prendiamo. Tutti prendiamo. Quanto è largo nei romanzi? 25. C'è il più grande della mappa. Sì. Sì. Ora. Ci vorrà che mi facciano tutti un coso. Allora, guardo se uno di loro ha intenzione di cancellarla o ha un modo per evitarla. Quindi esatto. Devo controllo le schede. Intanto... il save è 20, tecnicamente. Sì, infatti, fate i roll voi, intanto che mi rileggo le schede. Io ho una domanda. Io c'ho Future Glimpse e lo vorrei usare per resistere. Sì, sì, sì. Vuol dire che tiri due volte e prendi il più alto. Ma io con 20 ho modo effettivamente di evitarlo? Devi fare 10 e poi 7. Due per 5. 10. 10 più 6 più 6 è 22. È una spell di tier 2, quindi è volutamente esatto. Sbrocca. È 22. 22, sì. No, modo devi fare 10, poi 10 e 3. 3 ce l'ha. Sai cosa? Vaffanculo, io ci provo. Tanto sì, che sì, cazzo tanto devo fare? Esatto. Tra l'altro, io ho due cariche di Future Glimpse. Non so se ne puoi usare due sullo stesso. Bella domanda. Sì, puoi spendere solo una carica per te. Mi sembrava ci fosse la possibilità. Scritto, c'è scritto. Ok, quindi cosa devo tirare? Io tiro 2 di 10. Sì. Ho usato anche un Future Glimpse per resistere. Che palle. La difficoltà quant'era? 22. 22. Be my guest. Esatto, sì, no, potevano sbeccarla, ma sta. Lo nerferemo. Lo nerferemo i back. Niente, ho bisogno di Lieto. E Lieto ha fatto 9 plus. Sì, non ci siamo. Niente, tipo. È dialettica. Dialettica. E io emano lo scettro mentre casto Neromanzi, visto che avevo lo scettro già in mano per counterspell. Non aumenta cosa la difficoltà, succede? Credo. Perfetto. Cioè, guarda su Pentagon cosa... Ah, no, non è vero, non sapete cosa ha fatto. Ah, apri. Quanto è bella sta spell. Cioè, ha tirato... Piace. No, cioè, i cattedri non ci provi nemmeno. Cioè, io sì, cioè, ho fatto... Ah, fatto 9. Ah, ok, ok, scusa. Ah, sopra. Ma non basta, cioè, non basta in nessun universo 9. Già. quel 9 lì è un 13. 12, 12. La difficoltà è 26, se la casta con lo scettro. La casta con lo scettro, cioè, quindi... Ha un suono strano lo scettro? Assolutamente no. Ok. Cioè, fa il ding di quando vibra, però non strano, okay. Cioè, il suo suono okay. Standard. Ok. Allora, le due Magister, se lo prendono in faccia, mi sa... Mi sa proprio di sì. Perché è una teurgia. Qualcosa mi dice che finirà sotto il il Nerfhammer questa sì, sera. Sì, sì, ma vista questa tanto. Campagna. Sì, sì. Sì, ecco, non fare come Lia che a metà campagna mi priva delle cose. No. Se poi non ne cioè, ecco, se fai questa cosa qua e prendi Destroy per fare il doppio dei danni sui bersagli addormentati, te lo nerfo. Però io non sapevo si potesse fare, potevi esatto. Anche non dirmelo, perché no, no. Te l'avevo detto che Destroy volevo prenderlo, ma non per questo. Sì, sono dell'idea che le due Magister siano secche, però comunque rollo per vedere se si addormentano. Non si sa mai, facessi 2-10 di fila. E poi fa ridere vedere quanto hanno di resistere. Mamma mia! Quasi, quasi, quasi. Fa un reroll? Fa un reroll, quasi quasi lo gioco per ridere. Ah, basta che faccia maggiore, no, scusa, di 5. Ha fatto 28. Quant'è che ha fatto? 28. 28? Minchia, sì, quale delle due? Quella che avevi già addormentato. Ecco. Se l'è preparata, sì. Se l'è preparata, se l'è preparata. Sì, sì, sì, sì. Quell'altra non se l'aspettava. Gli altri non li rollo. I mostri, vado a vedere se si possono addormentare. Sarebbe effettivamente molto bello con Mif e Castanerobanzi e poi tipo, ma noi non dormiamo in realtà, cioè noi non sappiamo neanche cos'è. Ah no, non si addormentano, cioè si addormentano, ma rerollo un numero assurdo di volte durante il loro turno per toglierlo. Quindi diciamo che se dura 5 turni su di voi, su loro dura 2 turni. L'idea è questa. Però tutti quelli nel range sono addormentati. Il tizio viola non ha un cazzo di niente per resistere. C'ho più 0 a resistere. Però quando si addormenta c'ha un'ala, come vi dicevo, di robe. Quest'ala cresce a dismisura quando lo addormenti, qualunque cosa voglia dire. Il maggiordomo a fianco a te sussurra mentre si sta addormentando un po' presto. E anche penso, lui però. Sì, anche lui mi sa che avevo, che cazzo l'ho messo, comunque deve avercela la sua scheda, non la trovo, vabbè la cerco dopo, non è rilevante perché comunque non ha modo di resistere a sta roba. E mi rimane il gruppo di Rodvold che credo è sì, però noi è addormentata subito. E dove cazzo sono tutti, troppe schede. Sì, anche il party di coso si addormenta. Quindi non c'hanno letteralmente nulla per resistere. L'unica cosa che c'ha Fanny, ve la dico perché fa ridere, volendo posso addormentare uno di loro 3 volte. In che senso? Nel senso che possono spostare i malus da un punto all'altro. Wow. E credo che lo farò. E quindi in realtà i due ai suoi lati rimangono svegli. Si addormenta solo lui. Scusa, no, perché c'ha un numero altino anche lui per resistere. Non vorrei che... niente. Proprio Fanny. E... ho finito tutti? Sì. Ho una domanda, vai. Ma il mio coniglio tecnicamente secco. Rimane? No, no, si addormenta anche lui. Rimane attivo, ma non sparisce. Cioè, rimane addormentato. Buonanotte, Glimp. Piccolo principe. Ci sta. I 3 imp? Gli imp si addormentano come tutti gli altri. E il Rumaru si addormenta? Non basta. È dentro una giara, quindi non lo vedete. Ah, ok, giusto. È il Rumaru di Schrödinger, non lo possiamo sapere. Sta per come funzionano le cose, è il turno dei robi meccanici. E... ho fatto un'azione che è un iromanzi. Dai, sì, è solo che c'erano 40 bersagli, prego. Esatto, esatto. Segnati l'esperienza, la segno io. Grazie. E anche il mana. Quindi è la Magister Sigi che è su. Sì, è l'unica. Siete le uniche due. Voi due, Ren e Carl. Ok, perfetto. Guarda la Magister Sigi e fa. Ce l'avete su un piatto d'argento. Io adesso me ne vado. Ci faccio la principessa e Biff cerca di andarsene per il suo movimento che può fare in 4 caselle. Non vi sente nessuno. Non vi sente nessuno. Quanto li odio. Ci siamo, scusate, era più veloce così che spostarci o fare altre cose. Abbiamo finito? Cioè, devi fare la tua... sì, mi sposto di 4, tecnicamente. Riesci a spostarmi, so. Ok, fine? Sì. infatti devo segnare l'esperienza. È usato è una teurgia? È una teurgia, sì. Hai più guadagno più 2. Sono 18. Ancora uno e sale. Per come funziona il turno, tocca alle robe meccaniche. Sono tutti addormentati. Quelli di voi che sono svegli, vi accorgete che il rumore dei loro meccanismi diventa più intenso. Una vibrazione più forte. Fine del turno di tutti i robi meccanici. E ora ritocca il mio... cioè, tutti i nemici. Vado nello stesso ordine che ho qua. La Magisteristi è quella che ha resistito, giusto? Sì, ci sta. La Magisteristi è addormentata e non si sveglia. Aidos è addormentato e non si sveglia. Vati è addormentato e non si sveglia. Ups, name drop. Magister Sigi. Vabbè. Upsi. V. Tanto non sapete cosa. Magister Sigi è sveglia e si avvicina a Pronoe. Mi pare fosse questa qua, credo. E crea un sigillo per terra intorno a Pronoe con la magia, cioè non è che lo traccia effettivamente. E però appunto nessuno è lì per capire che sigillo sia. Rodvold sta dormendo. Gli altri due, vedendo che sono tutti addormentati tranne loro, prendono Rodvold e si allontanano. Ren da dietro fa uno sparo a quello che era già ferito e lo finisce. È addormentato, quindi non tirerò un D10 per evitare di fare uno. Ho finito quasi tutti, rimane Pronoe, che è addormentata. E dentro di sé, come forse vi ricorderete, ha il cuore in fiamme. Vi ricordate questa parte della trama? Oh no! Oh no! Sì, eh. Vedi, Sara, vedi addormentare le persone pazze? Oh, io ho seguito gli ordini, again, ok. Mi sono fidata di voi. Per alcuni di voi è una figura familiare, per alcuni di voi non è nessuno. Ma Promezia, da addormentata, come se fosse sleepwalking. Forse devo mettere sleepwalking, vabbè. Prossima volta. Si alza in piedi. Sorride. Tanto la vedi solo tu e solo la Magister. La Magister non è per niente felice, anzi è preoccupata per questa cosa. E il sigillo che è per terra viene polverizzato, incenerito. E i minion intorno si svegliano e si mettono in ginocchio in preghiera. Tutti intorno a Promezia. Promezia allarga un braccio, lo poggia sul petto e estrae qualcosa, una sfera di luce, una sfera fatta di cerchi luminosi, che smette di essere un disco come quello che aveva dietro le spalle, ma diventa effettivamente una sfera. E si gira intorno, come se stesse cercando qualcuno di familiare, un volto di cui si può fidare. E ti ricordi che hai qualcuno in braccio? E Pronoe lancia questa palla verso di te. Cosa vuoi fare? Rapidamente. Quindi? No, Mif cerca di evitarla, nel senso non sa cosa sia, cioè non ha capito l'oggetto. Hai la tipa in braccio, stai scappando. Sì. Cosa fai? Proprio voglio sapere... E è diretta verso la principessa, la giusto? Tirata. Ok, cioè cerca in qualche modo di accucciarsi, di prevedere la traiettoria per poterla schivare, cioè o scudare eventualmente la principessa, se ti piace di più. Come un orb, la palla ti gira intorno ed entra dentro la principessa, a meno che non fai effettivamente scudo col tuo corpo. Sì, sì, sì. E l'orb entra dentro Mif. No. E si peggio dell'altra volta con Asatot e Nyarlathotep. Pronoe cade a terra. Questa volta è addormentata for good. E toccherebbe a voi. Io vi estraggo a sorte. Quello giallo è chiaramente Adone, quello nero è chiaramente Lieto, quello marrone è Mif, quello grigio è Nibel. Pari merito tra tra Mif e Adone. Ok, vuoi che li ritiriamo, Sara? No, l'ho ritirato io. Adone. Ah, ok, tocca proprio a me. Ok, ma io sto dormendo adesso. Tu stai sognando. No. Non ho voglia di spostarti. Sei nel tuo sogno. Io quello no. Con Riegel. Ah. Sei in quello che qualcuno chiamerebbe l'inferno. Riegel ti ringrazia. Per quello che hai fatto. Per lui, per me significa molto. E anche se ora non morisse, ho ottenuto quello che volevo. Quindi di averti aiutato. Magari un'ultima azione buona prima di perire. Ti voglio fare un ultimo regalo. Adone lo guarda. Vero? Ti dà uno schiaffo con tutta la forza che ha. No! E ti svegli. Oh mamma mia, wow, Riegel. E ti svegli che hai un braccio di Nibel sopra. Ok, madonna. E il tuo coniglio si sveglia con te però. E tu hai intuito, ma non l'hai né visto né niente, che è successo qualcosa a Mif. Perché quando ti svegli vedi Mif che cade di faccia per terra, mentre ha una signora fra le braccia. Ok. Devi far ridere sta canzone, quindi la sposta. Scusate. E posso far agire il coniglio prima di me? Puoi. I love that. Domanda. Può prendere la corona e correre da me? Perché oggettivamente non ce la farebbe, perché c'ha 5 di movimento. Azione extra, raccoglierla. Azione base, movimento. Ok, allora ce la fa. Sì, sì, cioè arriva tipo a poco lontano da te, se la sputa ci arriva a tirartela. Perfetto, allora faccio fare questa cosa. Posso dire? Sì. Cioè, questo coniglio ha fatto di più di tutti gli altri conigli che hai avuto messi insieme. Mamma mia, veramente, ti voglio così bene. Yes. Got. Minchia. Peccato che muoveva. No, se rimarrà in vita per sempre. Tra atroci sofferenze. No. Vabbè, non esiste veramente. Lo so. Comunque. Hai ai tuoi piedi la corona di Doughty. Allora, quanti connessioni divine può avere Adone? No, scherzo. Che cazzo farebbe adesso? Oddio. Ma perché devo rollare personaggi depressi? Oh, vabbè. E se ne va. Magari la lascia lì, Non credo proprio. Allora, domanda Pjanic. Considerando che la mia saetta non ha nemmeno scalfito la corona, sarebbe virtualmente impossibile distruggerla. Non hai provato a spezzarla con le mani, però ci sono buone possibilità che non funzioni. Allora, non si rompe con le mie mani, non ci prova nemmeno. Cazzo faccio? Io non ho idea di cosa faccia la corona di Doughty. Non ne hai la più pallida idea. Cioè, hai l'idea che ti ha detto Riegel. Ovvero che sì, diventi un fortissimo necromante. Non credo farò questo gioco. Ma la posso rimpicciolire e ingrandire come voglio? Tipo è una cosa no, che... No, è di metallo. Ah, no. Ok. Allora niente, Adone credo che se la metta in borsa, oggettivamente. Pensavo dicessi in testa, ero proprio convintissimo. No, Sirio vorrebbe, Adone non lo farebbe proprio mai. Puoi segnarti nell'inventario la vera corona di Doughty e hai un'altra, hai altre due azioni questo turno. Perfetto, ora. E noti che tutte le creature meccaniche intorno a te si stanno girando verso... Biff. Sì. Ok. Però rimangono in preghiera. Allora, cosa potrei fare io? E scusami, e il loro rumore è già diventato assordante, nel senso che i loro circuiti vibrano, girano fortissimo. Oh no. Quindi vuol dire che stanno per esplodere? Vuol dire che tu non riesci a castare le spell normalmente perché il rumore ti sta facendo impazzire. Oh madonna. Che stanno per esplodere, no. No, non me lo ricordo. Scusatemi. Sì, sì, sì, a livello di gameplay tu, l'unica cosa che sai è che è difficile castare le spell perché c'è un frastuono. Ok, allora... Scusa un attimo che guardo. Sì, sì, sì. Stai già pensando a cosa fare? È inutile che lo fai perché non sai cosa sta per succedere. Io allora... non sto pensando proprio a niente diverso. Sto pensando a quanto sono fottuta e che forse dovrei giocare la memoria, forse. Però ti lascio parlare prima. Io cane. Bene così. Scusate, sto un attimo considerando una cosa, perché devo capire se voglio fare una cosa, se è meta, se non è meta. Per me posso fare la parte di Mif, se vuoi, se vuoi prenderti un minuto. Tanto non ti impedisce di far niente. No, perché poi pure di essere influenzato. Ok. Ok, credo che Adone si avvicini. E voglia castare Time Bubble su Mif? Sì. Prendi anche la principessa che è subito a fianco. Certo, sì. Faccio partire da Mif in poi. Esattamente. Il frastuono ti richiede un roll. Ok. 2, 4, 6. Arriva anche questo. No, ce n'hai pochi vicini. Devi superare 6 sommando il risultato del dado e la tua mente, quindi in realtà è un roll, devi fare 3 o più. Okay. Cioè più di 3, scusami. Non di 6? Di 10. Wow. Così. Phew. Siete... la principessa è addormentata, tu sei fondamentalmente unconscious, quindi non hai save. Assolutamente no, non vedo perché dovrebbe, non vedo quale sia il collegamento. E quindi siete time bubbled, cioè okay. Non si possono spostare, non possono agire, non possono fare niente. Grazie. Okay. Questo è il secondo debuff, tra l'altro. Sì. Mif! Vai. Scusa Pianici, già che ci sono correlazioni extra, posso castarmi di nuovo Future Glimpse? Vuoi castarti Future Glimpse? Allora, time bubble ti segno subito l'esperienza. Ok. Future Glimpse te la segno solo se la usi. Se, cioè, se effettivamente usi le stack. Hai segnato il mana? Sai che no, porca troia. Di niente? Di niente, infatti ci ho ripensato adesso. Allora, hai castato Time Bubble, Future Glimpse, Licore era gratuita, e basta. Questo è il secondo Future Glimpse, sono altri due. Ok, quindi perfetto. Ho usato tutto il mana. Tutto il mana e due di fatica. Okay. Perfetto. Ok. Okay. Questa scena questa l'abbiamo scena fatta. Mif, quando il cuore... Poi quando devi parlare ti smuti. Quando il cuore entra nel tuo corpo, dall'esterno si vede solo una leggera luce provenire dal tuo petto. Tu invece hai una visione completamente diversa. Il mondo intorno a te diventa nero e ti si apre un portale o qualcosa del genere per un altro mondo in cui c'è solo un palco, un cilindro nero e tu sei in piedi su questo cilindro e davanti a te c'è una figura. Sembra un soldato armor clad e ha un buco nel petto, un grosso buco nel petto e dalla sua armatura non riesce a vedere il suo volto e non riesce a vedere la parte inferiore del suo corpo. C'è del fumo, del movimento, ma non vedi bene. E vedi che le braccia sono diverse l'una dall'altra, cioè una sembra umana, l'altra meno. La creatura è estremamente tranquilla e ti guarda dall'alto in basso e dice: hai avuto modo di conoscere altri dei miei fratelli. Forse ti hanno parlato male di me. ma ti assicuro che ho le migliori intenzioni. Missy in questo momento è spaventata, cioè nel senso non è in un suo sogno, quindi non ha il controllo e semplicemente si siede e fa: ho conosciuto soltanto Yadamak e non mi ha detto nulla riguardo di te. Sei un diavolo, immagino. È corretto. Raramente faccio riferimento alla mia razza, in quanto loro, come quelli come te, non sono degni del mio rispetto. Quindi perché sono qui? Quello che hai appena assorbito è il mio cuore. Da tempo immemore sto cercando di recuperarlo. Come vedi, c'è un buco qui dentro. Hai la possibilità di chiudere un cerchio che ere fa hanno aperto gli umani, i mortali. Una spirale discendente di disprezzo e odio. Cedi il cuore alla principessa. Cosa succede se io lo faccio? Ridiventerò una cosa unica. E questo implica? Che mi prenderò la mia vendetta. Contro chi? Contro... Promezia! Porca noia, potente! Promezia! Praticamente... l'ha detto così proprio. Quando fa questa cosa... c'è una fiammata che lo avvolge e per una frazione di secondo riesce a vedere il suo aspetto dietro questa roba oscura e sembra incorporare parti di animale e altre cose strane. Come avevi disegnato Braxaras? Te lo ricordi? Quello sì, mastodontica sì. Mezzo bianca. Okay. Una via di mezzo tra quello e degli animali. Sì. Animali intendo dire un gallo, un serpente. Animali. Sì, animali. Miff lo guarda e fa: io non so a quale in particolare ti stai riferendo, però chi mi ha lanciato il tuo cuore si chiamava Promezia. Non hai fatto niente riguardo. E ce ne sono tante altre, oltretutto. Ma ho perso il controllo per un secondo. E tutta questa storia deriva da una sola. Se è successo tante ere fa, probabilmente quella Promezia non esiste più. Non che io non stia dando ragione ai tuoi sentimenti, che sono validissimi. Insomma, se qualcuno ti rompesse il cuore, cioè, vedi Miff che si sta aggrappando agli specchi, sarei arrabbiatissimo anche io. Però non sono sicura che se questa persona è umana come me, sia viva dopo tutto questo tempo, a meno che non sia un avatar, e allora in quel caso, wow. È il mio firmatario. E oltre a questo, la Troia si è reincarnata più volte, grazie a quell'altro bastardo di nostro figlio. Lord Drop! Lord Drop, no! No, Brax sarà inculato dalla... No! Povero gabbiano. Ma ora... Miff risparmierà le domande su come funziona tutto, perché tipo... Lei è... Ok, perché lo dovrei dare alla principessa? Hai un artefatto che non controlli fra... i tuoi organi interni. Sei sicura di voler prendere il rischio? Sei mutata. Tecnicamente dovrei proteggerla. Questo la proteggerebbe? O farebbe soltanto... è una pedina in più nel tuo grande piano, nel tuo grande scopo? La principessa non è mai esistita. Era tra le mie braccia un attimo fa, sono abbastanza sicura che... Quello è un cadavere di una ragazza nel quale è stata infilata a forza la sua essenza. No. Temo che se lo faccio mi ammazzerebbero tutti qua fuori. Ti proteggerò. Ah sì? Ancora non capisci il potere dei diavoli? No, no, mi ha dato un piccolo assaggio di quello che potete fare, però io non sono disposta a firmare un contratto con te. Non devi firmare alcun contratto. Devi solo prendere il mio cuore e restituirlo nel mio cazzo di petto. Cosa ci guadagno in cambio? Eviterai di incenerirti. Da sola. Non puoi vederlo, ma fuori da questo mondo le tue mani si stanno già bruciando. Io ho bisogno di un attimo per pensare. Hai tutto il tempo che ti serve per fare la tua scelta. E la roba che hai lì sparisce e diventa un sogno. Cioè diventa uno still frame, una roba strana, perché sei paralizzata nel tempo. Nei tuoi occhi rimane impressa l'immagine di Adone che si avvicina e ferma il tempo tra te e la principessa. E hai il tempo di pensarci, perché questo effetto dura qualche turno. Possiamo andare al prossimo. Mi sembra che fosse Lieto. Ed era... Lieto. Stai dormendo. Lieto è addormentato. Congelato nel tempo. No, no, sei fuori. Sì. Sei fuori. No, sì, può partire da loro in poi. E quindi posso rollare per cercare di svegliarmi. Puoi rollare per svegliarti, sì. Il test è sceso a 24, credo. Di quanto scende ogni turno? 2? Madonna, raga. E andiamo avanti un altro turno. Ho solo una roba da suggerirti, cioè da dirti. Hasten lo puoi castare da addormentato. Cioè puoi accelerare il tempo da addormentato. Si dormi più in fretta. Sì, esatto. Ah, sì, è vero. Come? È in Pentagon. Sì, una reazione. E ti faccio rifare il test, semplicemente. Non è niente di... Sì, non prendo bonus a niente in questo momento. È solo più facile il test. Ora stiamo cercando di capire di quanto. Perché ovviamente io non posso scrivere due volte la stessa parola nello stesso modo, altrimenti mi viene un ictus. C'è un casino della Madonna, quindi la difficoltà si riduce di un sacco. Figata che abbia scritto sta cosa, me la sono dimenticata. Vicino a Lieto ci sono... No, uno solo. Si riduce la prima volta di 3, la seconda volta di 6. Quindi poi il secondo roll è un 20, che è difficile ma non è impossibile. Dai. Dai, ci si prova di nuovo. Perché comunque c'è dei bonus. No, niente. Però andiamo avanti. È un ottimo turno. Nibel, la tua difficoltà si riduce di un sacco, perché ne hai 1, 2, 3, 4, 5 vicini. Quindi... si riduce la prima volta di 11 ed è 15 la difficoltà adesso per andare a svegliarti. Ok. Conta che io ho tiro propizio, quindi in realtà è come se avessi fatto... 1000. Mille. Sì. Vabbè, e... tiro 10. Sei 10. Ampiamente sveglio, bastava... No, fuck you, ho fatto un altro 10. Sono immune al prossimo Neuromancer. Sì, esatto. Out of sheer will. Veramente, facevi questo tiro sarebbe stato meglio. Però ho fatto un totale di 31. Porca troia. Wow. Sì, e riprendi un attimo i punti esperienza per la magia, erano? E la tua cultura più uno. La tua cultura più uno. Mi alzo in piedi, qual è la situazione? Allora, intorno a te ci sono un numero non specificato di creature meccaniche inginocchiate che stanno puntando verso Mif e una famosa donna dai capelli biondi, e che entrambe sono paralizzate nel tempo, in una bolla temporale. All'estremo punto di questa sfera c'è Adone col braccio alzato, perché è appena successa sta cosa, e poco più in là c'è Lieto addormentato. addormentato velocemente. Alle tue spalle c'è il coniglio di Adone che stava correndo in quella direzione, si è appena fermato. Se ti giri ancora, sono quasi tutti addormentati, tranne una delle donne dell'impero. La bolla, se ci entro dentro, tipo ferma il tempo anche per me, oppure... No, puoi entrarci liberamente. Ok, allora... No! Allora, così funziona? No, sì, anche tu, perché io mi ricordo che l'altra volta avevi detto che se io stavo time bubble e poi cercavo di entrarci, mi fermavo anch'io. Sì, devi poppare la bubble per entrarci, in effetti. Ok. Poppare la bubble vuol dire che dai un pugno a... alle persone dato... all'interno. O comunque due sessioni che Adone si prende schiaffi in faccia. Io non ho onestamente, cioè Nibo non ha onestamente idea di che cazzo sta succedendo, quindi puoi svegliare Lieto? Sì. Sì, mi sa che vado da Lieto e tiro un ceffone in faccia. Puoi fare un altro roll? Posso fare un altro roll io, quindi? Sì, la difficoltà è scesa a 14. No, okay. Non è sufficiente. Ok, se non dovessi servire, posso anche tirarti un calcio. Puoi fare un altro roll. Un bel ceffone piattato. No, dai. Uno di quelli proprio da padre e di famiglia. 12 bastava. Questo 11. Bastava 11. E Lieto si sveglia con una costola incrinata. Però è sveglio. Il tuo turno è skippato, quindi tipo... ci sarà al prossimo. Sì. Però lo tiro su. Lieto è tipo senza fiato, ma col pollice in alto. It's like I'm sleepwalking. Ho fatto tutti i personaggi, vero? Sì, mi pare di sì. Riprendo l'ordine. Dopo di voi agiscono i robi meccanici, e se prima il frastuono era insopportabile, ora è diventato completamente assordante. Non riuscite a sentire quello che dice la gente a fianco a voi. È come essere all'interno di una fabbrica a pieno regime, ma essendo dentro ai macchinari. Tocca alla Magister Isti, che grazie al frastuono si sveglia, ma finisce il suo turno perché lo fa come ultima azione del turno. Tocca al maggiordomo, che fa la stessa cosa, cioè si sveglia per il frastuono ma è troppo rintontito per fare qualcosa, oltre a guardare stordito Mif e la principessa. Il tipo viola fa la stessa cosa, si sveglia, si alza in piedi. La Magister Sigi, che era ancora che era già sveglia, scusate, aspettate, devo prendere la scheda. Crea un sigillo che, come si dice, ingabbia completamente Promezia, la ferma, la immobilizza completamente. Rimane come la gente nella centrale, cioè quelle... esatto, T-pose. Questa è la sua prima azione. La sua seconda azione è spostarsi fra le creature meccaniche. E non è una strega, quindi non può castare un'altra spell. Poi nel mio turn order ho Rodvold, e loro sono usciti di scena, cioè sono andati via a sud-ovest, per quanto ne sapete. Pronoe / Promezia è immobilizzata, quindi non fa nulla. Tocca di nuovo a voi. Tocca ad Adone. Io vi faccio rollare un dado a tutti per scegliere chi inizia. Vabbè. No, rollali tu come hai fatto prima, no? Vai, il giallo è Adone. Il... Nero è Lieto, marrone è grigio è Nib. Sì, bianco è Nib. Sì. Bianco. Parte Nibel. Vai Nib, facci sognare. Loro sono ancora una time bubble, io non ho più idea di che cazzo stiamo facendo. Non riesco a parlare con Lieto perché c'è troppo rumore. Puoi parlare con Irumaru. Faccio la cosa che mi riesce meglio, metto qua. Puoi delegare il tuo turno, eh. No, no, no, casto overpower, prendo uno di sti robot qui, lancio via. Ok, mi piace, prendi l'esperienza. Usano un sacco, quindi il tuo lancio non è tanto alto, ma cioè striscia per terra per un po'. Sì, sì, l'idea è di lanciarli lontano, cioè proprio di allontanarli dal resto del gruppo. Quanto è che prendo? Cos'è? 1 più 2, 3. Sì. Il marrone è Mif. Prego. No, pensavo di avere più tempo. Voglio prendere una decisione. Come dice Kesha a TikTok. È il tempo delle decisioni irrevocabili. Madonna. Musica adatta per fare una decisione strana. Veramente, veramente. Sei nella time bubble. Ti faccio fare il test per resistere. Wow. Quanto è? Allora, il secondo test, il primo l'hai fallito per default, è 14 meno 2, 12. Di 10, non so quanto... Ah, no, non ce la fa. Ha fatto 4, non penso che basti per... No. Detto okay. Questo, tu hai una roba che ti aumenta i test, però di 4, quindi arrivi a 8. 3, 11. Non l'hai fatto per 1, pensa che sfiga. Non puoi usare azioni di movimento, non puoi castare spell e non puoi attaccare. Ok, no, no, ma va benissimo, ma sto andando a fuoco in questo momento. Stai bruciando. Sto bruciando attivamente. Lentamente. Lentamente, quindi fa ancora più male praticamente, cioè... Non è fermo anche il fuoco nella time bubble? Infatti... No. No, bene. Non c'è più lo stronzo dall'altra parte, mi sono svegliata. Sì. Stai sveglia e vedi il tempo, cioè sei immobile, come se il tempo si fosse fermato. Quindi non posso nemmeno darle il cuore? Perché se non posso fare azioni, non posso neanche darle il cuore. Mi sembra un ottimo argomento. Tocca alla principessa, ti va? Sì. Ah no, è un D20 questo, vabbè, lo vogliamo solo il 20. Lei rimane immobilizzata e... Nel vostro essere paralizzati alla JoJo, i vostri occhi si girano per guardarvi. Incrociate lo sguardo. E basta. E il prossimo nell'ordine era Adone. Ok. Credo che... Allora... È una paraculata se dico che il rumore assorda Adone al punto che fa poppare la bolla? No. Secondo me ha senso. Però fammi un attimo vedere cosa potrebbe altrimenti fare. Dopo pare la bolla e gli spara in faccia. A tutte e due, per essere sicuro. Minchia, no, guarda. Vediamo un po'. Non hai mangiato la perla nera? La mangio adesso. Dovevo suggerire una cosa a Lieto, Ica. Una cosa dovevo suggerire a Lieto ed era mangiarci una perla nera per scatenare il caos, che non l'abbiamo fatto. Male. Ok, credo che Adone è talmente assordato che sta veramente per morire, però decide di castare Luck Counter e poi successivamente poppare la bolla rimanendo lì. Bella interaction. Quando fai la counter, fai 1 per mantenere attiva la bolla e quindi fallisce automaticamente. La counter segna 1 per questa stronzata. Perfetto, la bolla si poppa, siete mobili. E sopra Dadone, se la vuoi descrivere te, descriverà te. Vuoi farlo tu? Prego. Vuoi. Ok, compare una specie di cosa meccanica, di schermo meccanico, sul quale ci sono i numeri. Quindi una versione... È tipo la segna tempo con tutte le decorazioni, sì, a lato di coniglio, robe, e c'è un point. One. Aha, one. Sì. A proposito, mi sono scordato una cosa, ma con tutto il rumore riesco a castarla overpower? Dovresti rollare, giusto. Ok, roll. Sì, ne hai un botto vicini, quindi la difficoltà è 3, 6, 9... 12 perché ci avevo lanciato. Che tiro è? È concentrazione, quindi blu, mente pulito. Ok, quindi è un di 10 senza niente. No, overpower non era attivo, quindi non ho il bonus di overpower. Esatto. 5, quindi no, allora non entra overpower. Okay. Allora sì, non prendo l'exp. Ok, sì, sì. Va, allora lo lancio lo stesso. E considerate che da ora in poi diventa praticamente impossibile castare le spell. Cioè, lo lancio la spell? Sì, sì, non sì, ho sì. capito. Cioè, non lanci la spell, lanci il tizio. Ah, ok, sì, sì. Lanci una casella in meno. Tolgo la fatica. E... tocca ancora ad Adone. C'è ancora un'azione, se vuoi. Avrei un'azione di movimento. E basta, sì. O no? Sì. Oppure puoi usare no. Puoi aumentare di uno il counter. No, aumentiamo di uno il counter, sì. Il counter segna 2. Sì. E ti tolgo... cioè, ti metto la fatica e ti segno l'esperienza dell'account. Sì, scusami, grazie. BW. Ok, tocca al nostro lieto nazionale. Lieto se ne voleva andare. Puoi continuare ad andartene. Posso continuare ad andartene. Abbiamo detto che castare spell è basically impossible. Allora, questo... tu ce n'hai uno solo vicino. Cioè, gli altri sono... okay. Tutti abbastanza lontani che non ti impediscono di castare le spell, quindi devi fare un test di... devi fare almeno 3 tirando un di 10 e sommando la tua mente. Aritmeticamente okay. Non puoi fallire. Non posso fallire perché ho 3 di mente. Sì. Dai. Che fai un fulmine su qualcuno? Su chi è la domanda? Basta, posso colpire chiunque, in realtà non è veramente un problema. No, però no, non c'è senso, no, non mi piace, dietro se ne va. Correndo o camminando? Correndo, cioè non c'è abbastanza codette nella direzione libera per segnarti quanto lontano sta andando dietro. Ci sta. Ok, le creature meccaniche ora sono tutte in ginocchio a pregare verso Mif o la principessa, non è chiarissimo questa cosa. Sono tutti svegli, avete tutti fatto un turno e vado in ordine. La Magister Isti è sveglia, ma è in mezzo a 4 miliardi di mostri, per cui è completamente incapace di castare spell, motivo per cui fa una scelta oculata e, avendo compiuto la sua missione, si avvicina a Promezia e wow. La prende per portarsela via realisticamente. Poi ho Eidos nel turn order. Eidos si avvicina a la principessa e a Mif e urla qualcosa, ma c'è troppo rumore, quindi riesci solo a sentire. Sembra tenere ferma la principessa. Cioè, si è messo sopra di lei con tutto il suo peso. Il tizio viola è visibilmente infastidito dal rumore e squarta i due mostri più vicini. Vabbè. È estremamente agile, quindi fa tipo piroette, capriole, robe strane. Sì. E la sua ala diventa sempre più grande, sempre più corposa, con sempre più questi cristalli neri. Ho la Magister Sigi. Anche lei vorrebbe tantissimo castare una spell, anzi ci prova anche, ma non riesce a concentrarsi, per cui vedete solo un otto che compare in aria e sparisce subito prima di arrivare al bersaglio, che sembrerebbe essere la principessa. Non capite bene cosa sta succedendo e state cominciando a perdere i timpani. Rodvold è uscito di scena, Pronoi è uscita di scena. Tocca a voi, poi la principessa, poi di nuovo i robi meccanici. Vi faccio rollare, cioè rollo ancora una volta. Nero era lieto, vero? Yes. Allora, il più alto è lieto. Dimmi pure cosa vuoi fare, se vuoi continuare a correre. Sei in un punto abbastanza lontano che puoi castare le spell tranquillamente. Cioè, senti il rumore, ma non ti impedisce di vivere. E Pronoe è già stata rimossa dal... Pronoe è appesa e vedi da lontano che c'è una delle magister che la sta afferrando. È ancora viva, se è quello che mi stavi chiedendo. E... vabbè, extraction è il rosario, quindi c'ho più uno S, sì, per la prossima magia. E... spendo tutto il spendo il mana per tirare Thundercall, quindi ho un S in più e sono a più 2. Sì. Aspetta, c'è un'altra maniera, cioè, devo... Mi ricordo male, ce ne ho ancora almeno una. No. Ok, basta, non sono quelle due lì. E... tiro un fulmine su... però no, e realisticamente la Magister. Le puoi prendere entrambe? Sì, senza problemi, anche perché ho un tick al 2, quindi sono 8 celle di grandezza il fulmine. Devo fare un test di evitare. Su Pronoe fallisce automaticamente. Sul Magister Chisti. Fallisce miseramente. E folgori entrambe a piena potenza. Yes. Puoi rollare i danni. Sono... non credo che hai capito come funziona questa cosa. Tu ora prendi e tiri 6 di 8. Ah, ok, era ok, noi sì. Pensavo fosse numero 7. No, no, non è divertente. Ok, vabbè, ne rollo... è 6, no, in totale? È 7 in totale. Giusto? Sì, 7, 7, sì, sì, sì. Vai. Sì, allora ne rollo, tanto ne rollo... sì, sì, altri 6. Unlucky roll, mi pare. 29 totale. For good measure c'ho una carica di Future Glimpse in realtà. Non so se si può usare sta roba qua. No, beh. Attacchi o test? Cioè se... non è né un attacco, non è un cioè test, tu stai rollando i danni. Attacco. Questi sono i danni. I danni. E allora quelli sono i danni che sui si prendono. Sono 29 puoi... danni. È solo rewind che puoi ritirare. Sì, ha senso... fare... no, più o meno hai fatto un risultato medio. Sì, infatti. Tipo 1 o 2 sotto la media. Sono, ho detto, 29 danni. 29 danni. E mi devo togliere il mana. Questo è... Oh. Oh. Perché lei casta Purple Counterspell e deve fare 40 per non fallirlo. Lo rolliamo per i meme. Io lo vedo che questo è un 55. 14. Meno male. E nel caso volessimo contarlo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sono chiaramente vicini. 8, 16, 24. No, era un 24 che doveva fare, ha fatto 14. E non può castare spell perché tutte le spell richiedono di fare il test, quindi hai fulminato il magisteristi, complimenti. Tecnicamente, se vuoi essere accurato, mi sa che ho fulminato anche Nibelatone. No, non è... cioè, cade dal cielo. Sì, ma... aspetta. È Thundercall. Sì. Ontica 2. Sì, no, ok, puoi selezionare. Sì, sì. Vuoi c'è selezionare? Scelta. Puoi selezionare. Sì, fai un'area 3x3 in realtà con questa roba qua. Sì, diventa 5x3, diventa 8 celle di... quella è l'area dove selezioni. Poi all'interno selezioni sì, un punto e diventa 3x3 quelli che vengono colpiti. A posto. Ontica non c'hai chiaramente 4. No, però... no. Però adesso che me l'hai ricordato, bravo, segno 13 a Ontica. Esatto. E niente, ha fatto fuori il Magisteristi e promessa Pronoe prende, quanto abbiamo detto, 29 danni. 29 danni. 29 danni, stacca un fiore Pronoe, mi sembra. Non so da fare il calcolo, ma mi sa di sì. C'ha quasi un terzo di vita, c'è problema. Sono sacri o elettrici? Sacri? Elettrici? Tuono, no, sono elettrici. Tuono. Sì, allora è così. E no, non è morta però. Cioè, non è morta neanche la Magister, è KO. C'ha un'azione. Infierisco sul morto. No, non credo tu abbia mosse. Calciamo quel cavallo ancora un'altra volta. No, non ho azioni. Ho fatto un'azione extra, un'azione base, cioè un'azione di movimento. Sì. Perfetto. Ti darò l'esperienza alla fine del fight se non ti uccido. Esatto, mi giro di schiena e me ne va. Cioè, perfetto. Il tema del movimento è andarsene ancora fin là. Nel mio turn order, per secondo c'era Adone. Omif. Okay. Cazzo, ho tolto i dadi. Adone. Guarda, quello che fa semplicemente Adone è... Si avvicina un attimino a Omif la principessa, si stende per terra... E si mette lì ad aspettare che qualcosa lo ammazzi. Posso dire, comprensibile. Sei cullato. Cioè, magari... Da... Wow. Magari il coniglio arriva, sta sopra di lui, se lo tiene fra le braccia, ok? Ma è lì, tipo proprio a pancia in su, a guardare il cielo, con il coniglio in braccio, aspetta e spera che qualcosa lo ammazzi. Anzi, ti dico una cosa di più. Adone tira fuori la propria piuma e la posa in testa a Mif, cioè lì su Mif, okay. E poi si siede. Perfetto, non ti devo far fare roll. Ora tocca a Nibel. Mif era l'ultima, mi sa. Quanta è la gittata di effetto dei 6 celle, mi pare 5 o 6 celle. Porco Dio, Sara, perché l'inventario pieno? Piuma. Che metto qua. Perché c'ha la giara Sara? Non ce l'ha Nibel. E c'è la Nibel, quindi è sbagliato che ce l'ho io. Togliti, metto qua. Che tecnicamente dovrei essere fuori dalla gittata di tutti. Non è vero. E ce n'hai due, la difficoltà è 8. Ok. Allora, se metto qua invece. Non so che se ci arrivo qua, tra l'altro, aspetta. Ero qui. Sì, lì sei fuori. Qua ci arrivo. Cos'è? 4,2. Sì. Bene. Qua ce n'ho Sirio, uno. Sirio, spostami pure l'inventario. Fatto io. Hai fatto tu? Ok. No, ho già fatto. No, ho copia incollato io. Qui ne ho uno. Questo non mi prende. Questo non mi prende. Questo mi prende? Sì, però è un 4 se c'è solo lui. C'è anche questo qua, forse 5,7. È un 8. Che palle. Volevo fare una cosa. Usare il manapenny non è una spell, non ti richiede concentrazione. Ok, allora mi muovo lì. Guardo gli altri. E Nibel dice... Non ho tempo per queste cose. Mette la mano avanti e usa Incantaton Macron. No! Chi? Direzione sud. Quindi travolgi la Magister? Sì. E potenzialmente travolgi... tutto quello che c'è in quella gittata lì. Non so quanto... Sì. Oh mio Dio! È già morta la Magister, cioè... Una. L'altra. Una, la, manca un'altra. Oh cazzo, quella non è qua già morta, è a terra. No, e ora raga. Sta per subire. No, perché Nibel no? E... Ma chi ti frega un cazzo? Togliti un manapenny. Sì. E questa canzone non è adatta. Momento funghetti. Questo sì, è il momento veramente. Funghetti. No, Nibel, ma poi stai male. Esatto, cioè ti ammazzi da solo praticamente. Da qualche parte ad Apeira qualcosa si è rotto. Qualcosa che non si riparerà a breve. No. Se fosse un film vi farei una bellissima inquadratura di una crepa nel muro, di un muro bianco che si sta allargando lentamente. E da questa crepa esce fuori un singolo piccolo fungo chiodino. Mentre da voi avete Nibel che stende il braccio e una moltitudine di mani fatte di ife, funghi e croste afferrano tutto quello che c'è davanti, strappando le carni e spezzando le parti meccaniche. Fa effettivamente un buco per terra, oltre a tutto quello che ho descritto. E volevo farlo con l'uovo, aspetta un attimo, con l'elisse. Ok, e crei una cosa di queste dimensioni all'interno del quale distruggi tutto. Mirolli 5 di 8 sul Magister, 5 di 8 su Promezia e 5 di 8 sul Magister ancora vivo, in quest'ordine. Sulle creature meccaniche le hai danneggiate, non le hai distrutte, le hai spostate fuori da quest'area però. Questo è per la prima Magister. Se avessi un euro per ogni Magister che è morto questa settimana, avrei 2 euro. 21 va a meno 30 di vita e aveva meno 12 di vita massima, cioè poteva scendere. Quindi la Magister Isti è morta. Questo avrà delle conseguenze. La prima persona che uccide Nibel in tutta la campagna. Vero, 19 su Pronoe. Pronoe non è neanche svenuta. Assurdo. Sono quelli fatti bene. E la paga 20... della vita di Pronoe è paga la sua taglia di seno. Sì, wow. E mi manca l'altra Magister. È il primo danno che subisce, non ci credo. Sì, è il primo danno che subisce. 27, non ho modo di abbassarlo o ridurlo. Perché dovrei castare una spell e non posso farlo. Quindi prende 27 danni. Ok, l'hai smezzata ma è ancora viva. E anche lei è stata cacciata via, è atterrata un po' più in là. Quindi realisticamente salterà il turno. Il rumore si è fatto molto più flebile nella vostra area, in quel corridoio lì. E le vostre orecchie ringraziano Nibel, tutti gli altri vostri sensi meno. Hai fatto un'azione di movimento, questo è usare un oggetto, quindi un'azione base, credo che tu abbia finito. Se non ho... sì, posso usare un'azione extra? Sì, se vuoi. Uso sprint. Ok. Finito, posso lo step lì per te. No, cioè le braccia che si ritraggono nel mio braccio, il guanto ormai è andato distrutto completamente, c'avevo la moneta dentro il guanto e probabilmente anche la giacca tipo squarciata. Sì, noti anche che la tua pelle, nei punti dove prima avevi dei funghi che uscivano fuori, comincia a non esserci, cioè ora non ci sono più i funghi e non c'è neanche più la pelle, si vede chiaramente il dentro, i muscoli e le ossa. Sì. O a chiazze, ed è una roba che si sta rigenerando velocemente con altri funghi. Sì, sta ansimando al momento, non ha... finisco il turno. Perfetto. Ci rimane Mif. Quanto sta soffrendo questa donna in questo momento? Questa donna chi? Il Mif. È il tuo personaggio. Stai bruciando, dici? Non te ne accorgi nemmeno. Se non ti avessi detto che stavi andando a fuoco, non ti saresti accorta che la tua pelle sta andando a fuoco. Quanto riesci a resistere? Non hai idea, perché tu non senti il calore. Cioè, vedi le ustioni che si stanno aprendo sul tuo petto e sulle tue mani, ma non senti nulla. Mi posso alzare? Puoi fare quello che vuoi. Sei un fiore. Mi si alza, si guarda intorno. La principessa la sta ancora guardando? Sì, e sembra stia per fare qualcosa. Si allontana. Mi penso che utilizzi tutte le sue azioni per allontanarsi il più possibile da tutti. Ok, corri quindi. Sì, se riesci. Perfetto, faccio rapidamente un token per la principessa. E corri, quant'hai di velocità in movimento? 4, quindi 8. Più distante possibile da tutti. Così? Sì. Aspetta. No, no, ce n'era molti. 8 di più. Cioè, se è possibile, appunto, la metti lì, non deve prendere Lieto. Lieto tanto è fuori. Sì, sì, Lieto è fuori, è qua per pigrizia. Ah, ok, ok. Non hai, altre azioni? Esatto, perché di resistere. La principessa avete... Adone ha un déjà vu, voi meno. È come se ci fossero due persone che stanno combattendo al suo interno per uscire fuori e per decidere cosa fare. E quindi c'è tipo un suo braccio che è verso Mif, l'altro che tende verso Eidos. E anche la sua voce esce fuori... duplice, come se fossero due persone che cercano di parlare insieme con la stessa bocca, e non dice niente di coerente, e un sussurro, il mio cuore, e rimane immobile. Tocca alle creature meccaniche. Le creature meccaniche si alzano in piedi e, rimanendo in preghiera, marciano verso Mif. Oh no. Però perché? Non ho chiesto questo. Credo sia un motivo ricorrente. Vero, Adone? Benvenuta nella mia vita per la seconda volta di sta sessione. Lol. Forse Adone ha senso che si voglia ammazzare. Che ne pensiamo, Mif? Sono stanco, capo. Sì, stai cansato, sì, sì. Sono d'accordo. Sono completamente d'accordo. Cioè, io adesso sto cercando di capire quanto tempo può resistere Viv. Dopo vediamo come fare. E possiamo andare agli altri, che però sono i miei, credo. E credo che siano morti quasi tutti. Perché il mio caro Vati ne ammazza altri due. E gli altri si avvicinano lentamente ma inesorabilmente a Mif. Non stavano dormendo i robot? E i robot si sono alzati adesso e stanno andando verso Mif per qualche motivo che non c'è chiarissimo. Ed erano in preghiera prima. I robot, cioè gli imp che ha creato Eidos, placcano uno dei cosi, che è come arginare un fiume, più o meno. Esattamente, la memoria può essere giocata solo nel turno di Mif, o posso giocarla adesso, in questo momento? Vuoi, però non capisco cosa vorresti fare adesso. Non lo so, allora. Ti ho chiesto. Ora. Ora. Etta. Wow, veramente? Sì, aspetta, sì, che finisco il turno. Non so come ne posso uscire da questa situazione. Magisteristi è allegramente alla corte di Dauti. Eidos è... ok, mi ero perso un pezzo. La principessa ha lanciato via Eidos, come se fosse fatto di stoffa. E Eidos era sopra di lei con tutto il suo peso. Il rumore si sta attenuando, quindi riuscite a sentirlo che le urla con tutta la voce che ha in corpo per sovrastare il rumore. Resisti! E Eidos prende due coltellini, due lamette, e si buca i timpani. Wow, potente. Déjà vu? I just been in this place before. Madonna! Rodbold! Dopo aver fatto questa cosa, allarga le mani verso la principessa e crea un sigillo sopra di lei, un sigillo nero, fatto di energia, eccetera, eccetera, ve lo vedete sopra di lei. Sta facendo finta di non aver notato Adone, che è sdraiato a fianco alla principessa. Sì, sono tipo lì, man. Batti, ve l'ho già descritto, la Magister Sigi è stata appena scaraventata per terra e due dei robi meccanici l'hanno calpestata. Quindi spende il turno per cercare di rimettersi in piedi e abbandona la nave e si avvicina all'altra Magister. Non mi rimane nessun altro. Non mi rimane nessun altro. Tocca a voi. Volete fare voi l'ordine o rollo? Ma Sara vuole usare la memoria? Vai Sara. For free, non aspettiamo perché... Davide. Perché? Altri... ecco, io sto pensando. Come posso io fare? Io volevo farla contro David, ma come posso uscire da questa situazione? No, ho un'idea, dammi un turno, dai. Ho una domanda. Dai. Abbiamo sentito parlare alla principessa? Sì, ha parlato con quella voce doppia, non si capiva cosa diceva, l'unica cosa che era vagamente distinguibile era il mio cuore. No, Adone vuole rimanere lì a morire, basta, non ce la fa più. Non faccio niente. Adone è in action, è fatta a persona in questa. Sì, rimane lì fermo. Abbracci il coniglio, lo petti. Coniglio è un bravissimo coniglio, forse il più bravo di tutti. Il migliore coniglio. Guardo, sai cosa però? Guardo Aidos. Per incrociare lo sguardo, così giusto per... E vado, fine. Lieto è fuori, immagino non casti un altro fulmine. Cioè, Lieto è il più distante possibile sì. Senza aver abbandonato quei cristi che erano con noi. Non si ricorda neanche più sinceramente da quante parti stavano quali persone, quindi è tipo... Sofia. Cioè... Va bene così. Vedi che Miff sta correndo in un'altra direzione, dietro di lei c'è una mandria di robi meccanici. Questo è sufficientemente preoccupante. Miff che sta andando a fuoco anche, cioè, quindi... Però lentamente. Lentamente. No, non sono così stupido. L'idea era semplicemente tipo di farmi un muro di pietra davanti. Bella. Persona più furba di questa campagna. We build a wall. E Mexico gonna pay for it. Preoccupante come situazione, preoccupante. Puoi prendere tempo e facciamo agire la dottoressa. Ma... potrei usare l'altra... Cioè, mi è rimasta una carica di Future Glimpse? Sì. Sì, potrei usarla per vedere il mio immediato futuro. Ah, ok. Cosa c'è nel suo immediato futuro? Due possibilità: o Miss che cerca di poppare il cuore fuori da di sé, o Miss che si ammazza. Bello. E vedi Miff conflitta sul da farsi, ma se tu non agisci Miff tenterà di suicidarsi. Oh no, la tua situationship sta per morire. E lì è tipo, questo è un problema che si risolve da solo, però. Wow. No, non lo direbbe mai, non lo direbbe mai. Però lo penserebbe. Sta già pensando. Ha già pensato. E lì fa la cosa più stupida che gli viene in mente, sperando che alteri in qualche modo il futuro. E la cosa che fa Lieto è... si toglie lo zaino, ci infila una mano dentro, prende la forma di pecorino rimanente e la lancia a Miff. Forza! E la picca in testa e la fa svenire. Pam! Sei distratta da tutto quello che sta succedendo? Quindi la forma di pecorino ti arriva nel naso. Penso che passa da terra a sto punto. Chi è che me l'ha lanciata? Ha capito che è stato lieto? Sì. Mi grida per brutta strozzo, aiutami piuttosto, devo far uscire un cuore fuori di me. E lieto tipo dall'altro lato. Vedi? Ha funzionato. E non è il futuro che ho visto. Pjanic, ho una domanda. Dimmi. Posso fare a giratone? Certo, tanto dopo aver lanciato il pecorino non c'è nulla che può andare storto. Adone vuole alzarsi, correre da Mif e tirare fuori il cuore di Braxara se prende solo lui. Posso farlo? Dammi 4 secondi. Certo, prego. Il tuo luck counter segna 8. Se hai qualunque cosa che puoi fare, sì. Cioè, quello che vuoi, devi fare un'altra cosa prima di questa. Future Glimpse, un'azione extra. Mi va benissimo. Spendi il mana anche per Future Glimpse. E ti segno l'esplosione. Non cazzo di niente, Sirio. Mentre eri fermo a terra, lo schermo sopra di te stava aumentando il counter, che è arrivato a 9 e non c'ha un secondo slot, ok? C'ha uno slot solo. Okay. Quindi, ma non corri nemmeno, stai camminando verso Mif, ma hai così tante stack di movement speed che la tua camminata è la corsa degli altri. E quando arrivi a Mif, il luck counter raggiunge il massimo, la segnatempo si smonta, e tocchi il petto di Mif in maniera non particolarmente consensuale ed estrai il cuore. È un 10 sul dado naturale. Se vuoi tirare i dadi sopra il 10 puoi farlo, ma non è necessario. Lo faccio per i meme, ovviamente. Vai. Gambling. Mif cerca di ostacolarti in questo, sì, questo fatto cioè 25, quindi sì, puoi lo divertirti. So, lo so, cioè letteralmente cerca di mandarti via, insomma, schiaffeggiarti, dirti cazzo, stai facendo cosa stai facendo? E non ho detto un numero a caso, nel caso voleste saperlo. E hai il cuore in fiamme in mano. Non è la prima volta che hai il cuore in fiamme in mano? No, non è la prima volta. Quindi non ti devo fare l'interscena. Però Mif, quanti turni l'hai avuto? 3? Mi rolli 3 di 4 per favore. Ehi, adesso che ho il cuore in mano hai una cognizione leggermente più alta dell'ultima volta su cosa. Hai preso 8 danni da fuoco, complimenti. Ok. Ah, dai, molto peggio. Sì. Oggettivamente sì. E hai una cognizione migliore di che cosa sia, di cosa stia facendo e di cosa succederà se non te ne liberi immediatamente. E la voce che avevi sentito l'altra volta, ancora una volta, ti suggerisce di rimetterlo dove deve stare. Vorrei avere una conversazione con Braxaras, se possibile. E allora andiamo nella dimensione oscura. Si riapre la cosa, sei sul cilindro nero e davanti c'è il soldato armor clad col buco nel petto. Certo. Adone guarda Braxaras e fa: ci rincontriamo. Quanto tempo. Se capisco bene, io devo ridarti il cuore per spezzare questa stupida catena. Oppure morire. È questa la fine che hai deciso di fare? Credo di sì. Tu e Darva non avete fatto un bel lavoro. Beh, non è stata una scelta vostra. Alla fin fine. Lo vedi confuso, come se stesse trattenendo un io e chi, però non lo dice, quindi è solo... Okay. Weirded out in qualche modo. Ah. È stata una bella conversazione. Adone, se possibile, torna in sé e inizia a camminare via. Con il cuore dentro di sé. Esatto, hai il cuore all'interno. Stai chiaramente andando a fuoco, ma tu non senti nulla. In che direzione cammini? Cosa ho realizzato? Gli automi mi seguono, giusto? Sì. Ricordi dove siamo geograficamente proprio? Certo. All'entrata di Asmodan, tipo. Sì, ti rimetto un secondo la mappa, così almeno la Grazie, vedete. Grazie, sì. Dove c'è il coso rosso. Ok. Adone, sì, ciao. Lieto e Nif sono in questa direzione, quindi stanno andando verso il fiume, certo, che poi porta alla città. Credo che mi direziono nella cosa opposta, verso la centrale. E tecnicamente il cuore in fiamme casta uno spell ogni turno, quindi tu tecnicamente ogni turno guadagni uno di velocità di movimento. Certo. Quindi si inizia a correre. No, tu stai camminando, ma per loro stai procedendo a una velocità folle. E quindi Lieto rimane bamboozled nel vederti sfrecciare via. Mif viene praticamente buttato a terra, perché questa cosa qua di prenderti il cuore ti ha dato una spinta e non hai il tempo di reagire a sta cosa. E Nibel, sei, come dire, stordito da il peso di aver castato quella spell prima, quindi non hai la forza fisica per fermarlo in questo momento. La principessa ed Eidos, cioè Eidos le sta stringendo i polsi mentre il sigillo la sta fermando. Il coniglio riprende a seguire Adone e la Magister ha recuperato il corpo morto dell'altra Magister e se ne sta andando verso sud, mentre Vati V è infastidito dal fatto che i robi meccanici se ne stiano andando e lui non ha più nessuno da ammazzare. Vuole seguirmi pure lui, non so, abbiamo... No. Ha capito che non stanno combattendo contro lui, quindi ha già messo via i falcetti. E... One second. Questa cosa per voi è veramente rapida in realtà, quindi il tempo che capite cosa sta succedendo, abbiamo Mif e Lieto vicini, a pochi metri dal fiume, Nibel poco distante, che fatica a respirare, la Magister che se ne sta andando a sud zoppicando con il corpo dell'altra in braccio, e il tipo con l'unica ala viola che si sta avvicinando a voi, cioè a il gruppo che è rimasto sono Mif, Lieto, Nibel, Eidos, la principessa e Vi. Abbiamo un turn order? Potete fare quello che volete, non c'è un combat. Ok. Casta di nuovo lì, Romè. Aspetta, posso fare una cosa prima? No, no, mi dispiace, no. Ok. Mi casta di nuovo le rovenze. Dammi un secondo che ti fermo. Perché hai rotto un filo i coglioni con questa cosa? Quella dei sogni rigati era una volta al giorno. Sì, sì, sì. Oh, mi serve la scheda di V. Ma io non ho ancora fatto il turno del giro precedente. Esatto, diciamo. Quindi infatti ti faccio fare sicuramente. Quindi allora sì. Allora sì, ti lascio andare prima. Quello sì. Ok. Cioè, se non hai fatto il turno prima, sì. Vai, vai. Domanda. Trasportare qualcosa, afferrare qualcosa, conta come azione oppure... Azione extra se è un oggetto, se pesa veramente tanto rispetto a te, è un'azione base. Ok. Cioè, se io dovessi scattare, non posso afferrare qualcosa per portarlo via, vero? E dipende quanto pesa. Mettiamo che pesi come una ragazzina. Puoi portarlo via. Perfetto. Nibel sente pulsare il sangue nelle orecchie. non sente niente in questo momento. Sta ansimando, cioè la visione che è tipo ovattata, rallentata. Vede Mife in lontananza, vede Lieto in lontananza, vede Adone che sta correndo via. Poi si gira verso destra, vede la principessa a terra e comincia a scattare. E se riesce, afferra la principessa e corre verso Esbosan. God damn. Eidos non ha tempo di reagire a questa cosa. Lo scaraventi via perché era praticamente sopra di lei. Sì. E qua, esattamente qui, 10 metri. Sì, sì, sì. Volevi fare qualcosa? Fai quello che vuoi, Sara, fai quello che vuoi. Se vuoi castare un neuromancy, fai un neuromancy. È bello lontano. Sì. Troppo. Neanche? Sì, è troppo lontano. Cioè, sta andando veramente a una velocità folle e non è detto che sia immune alle spell. Ma ti dico un'altra cosa. Cosa? Penso sia mutato. Sì, è mutato chiaramente, ma cosa? Cosa? Beh, e io accendo la cam. Ok, perfetto. Mi sentite? Sì. Ok. Ciao, Mirio. Mi furla e fa: non è il momento, Shibira. Non è il momento, Shibira. No! Dentro. Sì! Mi fa questa espressione. Ma come cazzo faccio? Ancora ce la posso fare, non ce la posso fare in questo momento. Vedete uno che sta barricando. Sì, sei ancora mutato tu. Io lo so che sono mutato perché stavo dicendo cose che loro non devono sentire. Okay. No, perché sentivo lei. Okay. Sentivo Sara. Ok, Biff ride molto nervosa e fa: al momento non riesco a farlo. Avete uno che sta correndo contro la centrale dove chiaramente c'è Lilia con intrappolata. Il castello nei romanzi. Di nuovo. E beh, come fa a sigillarlo, se no? Mi sembra un'ottima risposta. La difficoltà è scesa di un botto. Ok. Però non ci sono i robi che slippano. Quindi Lieto c'ha difficoltà ridotta di... Quanti test avevi fatto? 5? 5 o 6? 5. Quindi la tua difficoltà è un onestissimo 16. Quella di Nibel è un 20. Quella di V è un 20. Pure quella di V. Ma Miff non c'ha 3 robot vicini? No, sono tutti a via. Cioè, sono rimasto lì perché non c'ho dei spostati. Ah, ok. Dicevi che la mia difficoltà è 20. Sì. Hai dei reroll? Io... Sei efficiente attivo o puoi rerollare? Sì. Cioè, sì, c'è il clip attivo. Questo è peggio del precedente. Però posso usare Einstein in teoria, come se prima. E fai subito l'altro roll. Ah, ok, sì. Chiudi gli occhi e li riapri. Però wow. Perdi il turno. Sì. Hai il microsonnellino. Ti posso far leggere quanta vita c'ha Vati? ...109. No. Di più? Come fa a fargliela? Com'è possibile che non riesca? Secondo me non ce la fa? Devi provare senza abbassarglielo. È come quando tiri una Pokéball a Rayquaza full vita. Oh mio Dio! E vedete... Vedete Miff che tira fuori una pergamena dalla sua borsa. La potevamo preparare, non ci pensavo. Cazzo, sì, infatti. Vabbè. E niente, attiva il sigillo, cioè volo in fondo di magia, cosa cazzo deve fare per attivarlo? Ottimo, vai, lo tocca e non so, cioè direziona la pergamena verso sto stronzo, cioè ce l'ha lì e lo fa. In... dici in una lingua a tua scelta, grande occhio di Xarom. Lo dice in praita. Quindi voi sentite un borbottio. Vi, sentendo che stai in qualche modo parlando con lui, mutati per favore che fa eco. Grazie. Sentendo che stai in qualche modo parlando con lui, però lui è tranquillo, cioè ha le cose abbassate, sta camminando verso di te e ha una voce molto pacata, molto tranquilla. Sì, fammela fare sta scena, cazzo. E dice: non so cosa sia successo, ma credo che insieme potremmo risolvere questo problema della piaga bronzea. E tu lo addormenti, rimane a terra, casti il sigillo e quello che vedete, quelli che sono svegli, quindi Mif e Lieto, è che lui rimane in T-pose e sopra di lui l'ala che ha si sfalda e tutte le schegge che la componevano sembrano evaporare, arrivare in cielo molto rapidamente. E per un istante, una frazione di secondo, ti sembra di vedere una donna vestita di viola che esce fuori dal suo corpo e anche questa va verso il cielo. Si dura una frazione di secondo e passa un secondo, non succede nulla. Passano due secondi, non succede nulla. Lieto è sveglio, Mif è sveglia, tutti gli altri nell'aria sono addormentati e poi l'intera area si copre di una sostanza azzurra, forse più viola, come se Frost Nova di Path of Exile, per quelli di voi che hanno una cultura, per gli altri come se un'onda di ghiaccio si fosse fosse stata rilasciata dal coso, da Bati. E di nuovo questo lo sente solo Mif. Faccio la scena di Adone, poi ritorno a voi e credo che la finiamo così la sessione. Questa è la musica che volevo, quindi la luppo, sperando di fare in tempo. Ok. Per te, Adone, è un pellegrinaggio. Stai camminando tranquillamente, senza un problema nella tua vita, verso la centrale di Mana. Hai dietro di te una processione di creature meccaniche che in qualche modo hanno raggiunto il tuo passo e quindi sono tutti con le mani congiunte, tutti dietro di te. Riesci a percepire chiaramente le loro anime come coniglietti che ti seguono. Ripensandoci, hai sentito che c'erano altre cose, altre anime in quel momento, in quello scontro, e ognuna di loro aveva un aspetto diverso, una entità diversa. C'erano molti coniglietti, quasi tutte queste creature cioè tutte le creature meccaniche sono dei coniglietti. Il tipo coi capelli viola sembrava qualcosa di diverso, sembrava un lupo, qualcosa che li mangia i coniglietti, e forse ti è sembrato di vedere dei rovi sparsi, qualunque cosa vuoi dire. Stai quindi camminando verso la centrale di Mana. Ti muovi a una velocità assurda, ti muovi così veloce che quando passi di fianco a un uomo sulla trentina con la mascella finta e i vestiti eleganti, lo ignori completamente, non è minimamente rilevante per quello che stai facendo. No. E la sorpresa sui suoi occhi per quello che ha visto, che diventa rapidamente un sorriso beffardo, svanisce dietro di te, come tutto il resto. sei alle porte della centrale di Mana. Sopra di essa c'è il grande Senic con le braccia incrociate, proprio come le creature che ti seguono. E vorrei chiederti cosa vuoi fare. Non sono ancora morto? Sembri ancora vivo. Perché sono ancora vivo? Posso conversare con Praxaras? Non sembra rispondere. No! Anche Rigel sembra sparito. Anche tutte le altre voci che c'erano sembrano zitte. Sei da solo, oltre alla miriade di creature che fuori da te ti circondano ora. E se ti fermi, si mettono a formare un semicerchio intorno a te. Madonna, non ne ho più. Porca troia, vaffanculo. Chi è che lo può uccidere? Ah! L'uomo che hai sorpassato, sentendo che parli tra te e te dicendo queste cose, ti si avvicina con una pistola in mano che sbatte sul suo mento e, sorridendo, dice: sembra che tu abbia un problema. Che palle, che io sì, sono arrabbiatissimo in questo momento. Adone no. Adone, fai conto che si è messo con le mani così sul cancello e ha tutti gli occhi giù. Guarda in su e ha proprio una faccia di rabbia, disperazione, c'ha tutto nella faccia. E poi con tutta la velocità accumulata scatta davanti alla pistola di Devin. Lui ha una reazione viscerale, per cui avvicinandoti così velocemente non è pronto a reagire, per cui sussulta e appena si riprende da questa cosa dice: il cuore prima. Ci vorresti fare col cuore? Rendere il mondo un posto migliore. Vuoi liberarlo? Assolutamente no. Dimmi cosa vuoi fare col cuore, Devin. Non essere timido adesso. Non so se l'hai testato, ma puoi avere i segreti della tecnologia con quello. Voglio che l'impero sia costruito su una tecnocrazia, comandata da persone che sanno quello che fanno. Non degli idioti che cercano di accecare gli altri e ottenere un controllo ingiusto, come hanno fatto loro. E indica una direzione a caso, sottintendendo che là ci siano i Magister. Sì, sì. Sarò un migliore imperatore di tutti quelli che hanno preceduto me. Di che Adone ci pensa, dice: hai degli ideali nobili, Devin. Peccato che non sarai mai un imperatore. E Adone vuole, con tutta la velocità che ha, parare il grilletto e spararsi in testa. Gli stacchi la pistola di mano, gli spari in testa. Il proiettile lo percepisci subito, non è un proiettile normale. C'ha qualcosa di completamente alieno. In un orecchio senti il lampo, nell'altro il paradiso. Finisce qua la storia di Adone. Per il momento. Riposa in pezzi. Dall'altro lato. Il ragazzo coi falcetti è impalato. Una strana sostanza copre il terreno e se eravate abbastanza vicini vi ha inglobato le scarpe, nel senso che dovete staccarle dal terreno come se fosse una sostanza estremamente appiccicosa, però solida. E vorrei chiedervi cosa volete fare. Siamo io, Miff e Nibel, in realtà. Cioè, c'è non Nibel sta Aidos. Sì, sì, sì, ci c'è siete. Cioè, Nibel credo sia addormentato. Sì, sono addormentato, c'ho la principessa con me. Ok, siete entrambi addormentati e questa sostanza vi copre parzialmente. Tra 15 secondi massimo Nibel e la principessa si addormenteranno, si sveglieranno. Quindi Nibel e Mif hanno un paio di minuti tra di loro. Cioè, un paio di battute, diciamo. Non so se Mif sente i sogni degli altri nel frattempo, però sicuramente sente Nibel ruggire svegliami nei suoi sogni. Solo se lo fa attivamente. Se non lo fa attivamente, sì, lui no. Lui sta sognando questo. Oh no, Mif, in questo momento non è da nessuno. Anche la lì, Magister, sono allontanate. Sono allontanate. Oddio, prima che una è un cadavere. Non è un grumo di... Era in range, forse era in range, si è addormentata anche lei. Mif cerca di... Cioè, al massimo si toglie le scarpe pur di potersi muovere se non riesce. No, ce la fai, è solo okay, come se fosse nel fango. E va verso la Magister CG sì. E la sveglia. Lieto cosa fa? Lieto indietreggia un poco per levarsi, tipo se lo schifo gli è arrivato tipo ai piedi. Sì. E guarda, contempla la zona, cioè una certa quantità di corpi per terra, immagino una certa quantità di danni all'ambiente. Si infila una mano tipo in una tasca, tira fuori una sigaretta, se l'accende. Ok, io direi che è il momento di andare in Nadiria. Si gira, si leva dal cazzo. Mif, ti avvicina la Magister mm-hmm. e la svegli. Mm-hmm. La scuoti proprio. Sì. La Magister ha giusto il tempo di prendere fiato. È visibilmente esausta dei danni sotto il corpo. E ti dice: hai fatto quello che ti chiedeva? Sì. Bene. Aspetta, Cibira intendi? Sì. Sì, è sigillato lì e indica il corpo. E i tuoi amici? Il santo è andato alla centrale, non sono riuscita a fermarlo. Lieto si gira verso Lieto, Lieto è andato via. Lieto non c'è, Lieto sta camminando proprio. E l'avatar del dio del tempo sta andando. Non lo potremo catturare neanche volendo. No. La cosa più intelligente che puoi fare è stargli vicino. A chi? A Lieto? Sì. Ah, e del piano principale? E guarda la Magister Insti. Se riesco a resuscitarla, non ci sono problemi nei ritardi. Se non riesco a resuscitarla, abbiamo un problema. Eseguo gli ordini. Eseguirò gli ordini. E non ti preoccupare del... E dice un termine che ti rimarrà impresso. Non ti preoccupare del letico. Ci pensiamo noi. Mi fa tipo un attimo un... Cioè, corruga le sopracciglia e fa... Ok. Si alza e va dietro Vito. Nibel, in questo momento ti svegli. Sì. Non riesci a capire se ti ha svegliato Mif o è che dopo un po' la magia perde di efficacia. Fatto sta che hai Mif in piedi poco davanti a te e dietro di te, cioè dall'altro lato rispetto a dove è Mif, c'è la principessa. E poco più in là c'è Lieto che si sta allontanando. Quindi la principessa non è vicino a me. Quando sei addormentato ti è cascata di mano ed è caduta un metro più avanti. Ok. E lei è completamente coperta di questo strato di sostanza. A te invece ti arriva a qualche centimetro sulla faccia, ma il resto del corpo è abbastanza fuori che ti puoi alzare senza problemi. Dov'è che sono Mif e la... Mif rispetto la a te è a sud... la Magister non la vedi già più, cioè c'è il buco che la copre. che gli fa da scudo rispetto alla tua visuale, e Lieto è alle tue spalle. Te li posiziono. L'altra cosa strana che stai notando è che il tizio con i falcetti è in T-pose. Sì. Nibel si alza in piedi e Mif, se lo vedi, c'ha il liquido che gli cola il dosso, il cappello che gli fa ombra sulla faccia, vedi la faccia completamente oscurata e vedi che ora entrambi gli occhi sono due perle blu che brillano nell'ombra. Prende la principessa dalla maglia, da dietro praticamente, la solleva in maniera brusca senza stare particolarmente attento a come la trasporta, e incomincia a muoversi verso Esbosan. Come distinto ormai. Quindi nella stessa direzione di Lieto, perché mi pare di capire Lieto per andare in Nadiria passi dalla città. Sì, sì, sì. Sì, però cioè, non sta seguendo Lieto, lui ha un obiettivo in questo momento. È come una bestia in questo momento che ha annebbiata, che sta cercando di portare a termine il suo compito. La principessa si sveglia e con un filo di voce ti sussurra, con parole dolci, una voce dolce: mi hai salvato la vita? Nibella la fissa per un attimo, però non risponde. Immagino di dovermi sdebitare. Sono ricca nel mio paese, ma non è questo che vuoi, vero? Devo farla pagare ad una persona. Gli occhi della principessa si illuminano come se delle fiamme fossero nascoste all'interno del suo cranio, e con una voce che a qualcuno di voi è familiare dice: nessuno ti capisce meglio di me, ma credo che Promezia abbia già pagato. La chiudiamo qua. Wow!